davanti lì. Sicuro? Secondo me. Ci moriamo? No. Ma che è? Sembra privato. Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Come fa a sapere lo che è successo? Mannaggia, vedo la luce di fuori, siamo quasi arrivati. Poi mi ero accorto che sta cosa. Sette che le colonne che ci sono sotto. No, è quella. Se te c'hanno l'obbligo di fermata, se te c'hanno il semaforo. Sembra questo ferma, fammi capire. Ma cosa c'è? Fammi passare tutti. Ma no. Ti penso che potete dire volte qua. Ma che è veramente bravo. Ma che allora, c'è un ombrello mi sono colto. Wagenhalt significa vagone fermo. Io non mi piace, non mi piace. Vero, no? Hai visto quelle cose? Hai visto quel... Hai visto che il drago Matteo Swarovski 17.000 euro? Manco la macchina 10.009 il cavallo. Per immagine se ti casca per terra. Ma l'hai visto fuori dei... Hai visto quello, cioè, hai visto quello per la sala, al posto di mettere quello su nel tavolo della sala e c'hai quel vaso te, no? Hai visto quelli che sono uguali, che vanno su così, che hanno una, un bracciale intorno di Swarovski e quello sempre fatto a piatto quanto la è bello. Sta benissimo. 200 euro costa. Perché quello che c'hai quanto costa? 2 euro? No, allora, già mi sono rotto quello però. Mi pare che mi ha rotto mai niente.